Noi in generale vorremmo che si ponesse un po' attenzione a questa situazione di precari, appunto, che sono veramente tanti in Italia, e che il governo facesse delle azioni chiare per poter risolvere il problema, perché esiste il decreto Madia che ha deciso, ha stabilito alcuni parametri di stabilizzazione, e quindi sono molte le persone che rientrano in questi parametri, che sono per esempio un contratto a tempo determinato per più di 3 anni ed altre cose, soltanto che fino adesso il governo e anche il DTA del CNR non ci hanno dato delle risposte chiare, che sono state fatte delle proposte di legge, un sacco di emendamenti, però all'atto pratico ancora non si è capito bene come si intende risolverlo, perché il governo ha pensato di stanziare 10 milioni per il 2018 e poi 50 milioni e 50 milioni nel 2019 e nel 2020. Questo però, la cosa diciamo poco chiara è, sia chiaramente 10 milioni non sono veramente pochi per poter stabilizzare i tanti precari che ci sono, e inoltre il governo chiede un cofinanziamento da parte dell'ente, e quindi noi vorremmo che anche questa modalità di cofinanziamento fosse decisa in maniera chiara. E poi non ci piace molto questa cosa che per il primo anno vengono stanziati solo 10 milioni, rimandando ad un'eventuale finanziaria dei prossimi anni il finanziamento più grosso. Diciamo un po' questo è il nocciolo della questione. Vorremmo un po' che ci fosse chiarezza sui fondi, su come vogliono portare avanti questa stabilizzazione, che è richiesta appunto, come le dicevo, dal decreto Madia. Quindi il decreto di questo maggio del 2017. Sì. Cosa prevede in particolare proprio in riferimento alla ricerca? Allora, lì prevede in generale due commi, uno per che richiede proprio la stabilizzazione di coloro che hanno avuto almeno 3 anni di contratti a tempo determinato, con un lasso di tempo abbastanza ampio, aver avuto almeno 3 anni di tempo determinato. Adesso coloro che hanno i tempi determinati sono quelli che sono, diciamo, inquadrati come ricercatori, come tecnologi, oppure come tecnici o come tecnici amministrativi. E poi c'è un comma 2 che invece prevede la possibilità di fare dei concorsi per coloro che invece hanno dei contratti, diciamo, definiti un po' anomali, che sono gli assegni di ricerca, i COCOCO, i contratti a progetto, e quindi chiede di aprire dei concorsi accessibili a quest'altra fetta di precari che non hanno un contratto così, diciamo, chiaro e tutelante come quello dei tempi determinati. Quindi uno dei motivi della vostra protesta è il fatto che non ci sia chiarezza da parte del governo, ma si sono fatte delle ipotesi sul perché il primo anno i finanziamenti siano così bassi? La mia idea è, insomma, che siamo comunque in un momento elettorale, quindi, come dire, si cerca di darci un po' il contentino. Per quest'anno facciamo 10 milioni, così vi mettiamo a posto, qualcuno di voi, veramente qualcuno sarebbe, e poi si vede, e poi noi ci impegniamo a tirar fuori altri 50 milioni l'anno prossimo, però poi in realtà non c'è certezza di questa cosa, perché poi ci sarà una nuova finanziaria e altro. Sostanzialmente un motivo elettorale. Sì, un po' motivo elettorale, un po' cercare di far fronte al decreto Madia in una maniera che sia morbida e che non incida molto sull'economia dello Stato per questo primo anno, che sì, è quello un po' particolare perché sono le elezioni in mezzo e tante altre cose. Adesso voi siete in assemblea permanente, come avete intenzione di continuare la vostra azione? Allora, il 15 ci sarà una manifestazione a Roma, a Montecitorio, e quindi stiamo organizzando pullman, perché noi abbiamo anche un po' anche l'appoggio dei sindacati, di alcuni sindacati che ci hanno proprio dato una mano anche appunto nell'indire le assemblee, eccetera, sono abbastanza dalla nostra parte, e quindi mettono anche a disposizione dei pullman per poter andare a Roma, dove c'è questa grande manifestazione organizzata dai Precari Uniti, che è questo gruppo precari che si sono auto-organizzati e che loro stanno mandando avanti questa, diciamo, battaglia di anche un po' di sensibilizzazione, di richiesta di ascolto da maggio, e quindi hanno organizzato questa manifestazione molto grande davanti a Montecitorio, un po' per chiedere che di essere ascoltati e veramente di prendere dei provvedimenti seri per cercare di far fronte al precariato, non risposte così un po', come dire, per darci la caramellina.